Letture di Radio 24. Secondo un recente rapporto Eurostat, l'Italia si trova agli ultimi posti nella classifica dei paesi dove si fanno più acquisti online. Peggio di noi solo Cipro, la Bulgaria e la Romania, colpa del timore per le truffe, delle tasse e dei frequentissimi casi di pacchi spediti e mai arrivati a destinazione, che stanno rendendo l'Italia lo zimbello del mondo. Sono sempre più frequenti i casi di siti stranieri che spediscono in tutto il mondo tranne in Italia, sapendo che nel nostro paese ogni tanto qualche pacco misteriosamente sparisce. Se volete aprire un sito di e-commerce, forse l'Italia non sembra essere il paese che fa per voi. Negli ultimi 12 mesi, secondo una ricerca del Centro Studi Impresa Lavoro realizzata su elaborazione di dati Eurostat, solo il 26% dei cittadini italiani di età compresa tra i 16 e i 74 anni ha effettuato online l'acquisto di almeno un bene o servizio. Il nostro paese si colloca così al quart'ultimo posto di questa particolare classifica europea, appena sopra Cipro, Bulgaria e Romania, 11. Ai vertici della graduatoria 2015 si collocano invece i consumatori di Regno Unito, Danimarca, Lussemburgo e Germania. In Italia usiamo poco il computer e internet in genere, spiega Massimo Blasoni, presidente del Centro Studi Impresa Lavoro. Incidono fattori tecnici come la scarsa velocità della rete, ma anche e soprattutto aspetti psicologici. Gli italiani non si fidano ad acquistare online. Sono abituati a usare il contante piuttosto che le carte di credito e temono le truffe digitali. Analizzando le scelte dei consumatori negli ultimi 3 mesi, si osserva poi come resti bassissima la frequenza degli acquisti, quasi sempre 1 o 2 acquisti a testa, solo il 5% ne ha effettuati da 3 a 5, e comunque per importi che non superano quasi mai la soglia dei 500 euro. Nell'ultimo anno i beni più acquistati dagli italiani sono stati viaggi e vacanze, 11%, e vestiti, 10%. Curiosamente, solo il 2% ha deciso di affidarsi alla rete per l'acquisto di tecnologia o servizi di telecomunicazione. Ma qualcosa sta cambiando. Da una parte è vero che negli ultimi anni in Italia si sta seguendo un trend di crescita positivo. Una crescita simile a quella degli altri stati europei, che però sono più avanti in termini assoluti, spiega Dario Tana, consulente di e-commerce che aiuta le aziende a fare business in rete. Dall'altra, alcune aziende italiane hanno un sito che però utilizzano come una semplice vetrina, senza nessuna strategia per farlo diventare un business. Inoltre, aprire un'azienda in Italia che voglia vendere online non è facile, colpa della troppa burocrazia e della tassazione elevata. Avete ascoltato l'articolo di Gianluca Baldini, Truffe e tasse, perché da noi è così difficile vendere online. Dal venerdì di Repubblica del 22 gennaio. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Letture di Radio 24. La decisione di censurare le statue del Campidoglio per non offendere la sensibilità di Rohani, presidente di un paese dove non vengono rispettati i diritti umani e dove solo nel 2015 sarebbero state eseguite 980 condanne a morte, ha scatenato reazioni di sdegno in tutto il mondo. In Inghilterra, il Guardian scrive: Roma copre le statue di nudi per evitare al presidente iraniano di arrossire. In Francia, Le Figaro ironizza: a Roma fai come i romani. Sembra che questo antico adagio abbia subito delle eccezioni durante l'arrivo del presidente iraniano nella città eterna. E a proposito della decisione di non offrire vino nei pasti ufficiali, il quotidiano francese ha ricordato che lo scorso novembre, in occasione della visita di Rohani, la Francia aveva rifiutato le condizioni poste dal presidente iraniano, che aveva preteso che non ci fosse alcol a tavola. In cambio i francesi avevano proposto di offrire una colazione, ma le autorità iraniane l'avevano rifiutata, giudicandola troppo frugale. La visita di Rohani era stata quindi annullata. Le Figaro riporta anche le parole scritte da Giulio Meotti, che nel suo editoriale sul Foglio critica la sottomissione dell'Italia all'Iran. Ecco le parole di Meotti. Quando i fratelli musulmani hanno vinto le elezioni in Egitto, i salafiti si eccitarono molto e lanciarono una campagna per coprire di cera le statue antiche, definite un prodotto di una civiltà corrotta e infedele. Quando lo Stato islamico ha conquistato la città irachena di Mosul, ha subito vietato le statue in quanto idolatria, distruggendone un bel po'. In Siria, i terroristi islamici hanno raso al suolo le statue assire in quanto pagane. E come dimenticare le guardie rosse di Mao che distruggevano con puerile frenesia le statue della Cina imperiale? Qualcosa del genere, declinato all'italiana, sta avvenendo a Roma, dove in occasione della visita del presidente iraniano Hassan Rouhani in Campidoglio, sono state coperte da pannelli bianchi su tutti e quattro i lati alcune statue di nudi dei musei capitolini. La copertura sarebbe stata decisa come forma di rispetto alla cultura e sensibilità iraniana. Sempre per rispetto alla cultura e sensibilità iraniana, potremmo per due giorni ritirare tutte le copie dei versetti satanici di Salman Rushdie dalle nostre librerie. Siamo infatti alla sottomissione più ridicola e grottesca. Velare quelle statue in ossequio al turbante iraniano è non soltanto uno sfregio a ciò che siamo, ma finirà per eccitare ancora di più gli appetiti totalitari degli inquisitori islamici. A quando le nostre scuse ai talebani per aver condannato la loro demolizione dei grandi Buddha di Bamiyan? Queste le parole di Giulio Meotti nel suo editoriale L'Italietta si sottomette a Rohani, da Il Foglio del 26 gennaio. Anche Massimo Gramellini titola Sottomissione il suo Buongiorno sulla Stampa. I geni del cerimoniale che hanno inscatolato quattro statue, peraltro velate, del Museo Capitolino, nel timore che, vedendole, il presidente iraniano Rouhani avesse uno sgomento ormonale e stracciasse i contratti con le nostre aziende, sono i degni eredi di un certo modo di essere italiani, senza dignità, quella vocazione a trattare l'ospite come se fosse un padrone. A fare i tedeschi con i tedeschi, gli iraniani con gli iraniani e gli eschimesi con gli eschimesi. A chiamare rispetto la smania tipica dei servi di compiacere chi li spaventa e si accingono a fregare. Su questa tradizione millenaria, figlia di mille invasioni e battaglie perdute anche con la propria coscienza, si innesta il tema modernissimo del comportamento asimmetrico con gli stati musulmani. Se un'italiana va in Iran, si copre giustamente la testa. Se un iraniano viene in Italia, gli copriamo ingiustamente le statue. In un modo o nell'altro, in un mondo e nell'altro, a coprirci siamo sempre noi. E la suscettibilità da non urtare è sempre la loro. Ma se la presenza di donne sigillate da capo a piedi su un vialone di Baghdad urtasse la mia di suscettibilità? Non credo che per rispetto nei miei confronti gli ayatollah consentirebbero loro di mettersi la minigonna. Sarei curioso di sapere come funziona la sensibilità a corrente alternata del signor Rouhani. Le tette di marmo lo sconvolgono e i gay condannati a morte nel suo paese no? E di sentire cosa penserebbe mia nonna di questa ennesima arlecchinata italica. Quando ero bambino, mi insegnò che il primo modo di rispettare gli altri è non mancare di rispetto a se stessi. Questo era il Buongiorno di Massimo Gramellini, dalla Stampa del 27 gennaio. Ecco invece cosa scrive Vittorio Sgarbi sul giornale il giorno successivo. La decisione di coprire le sculture romane del Campidoglio può essere motivata da due impulsi. Il primo, di superba cortesia. Il secondo, di umiliazione. Chi è superiore può fare qualunque cosa, concedendo ciò che ritiene gradito all'altro. Chi ha paura si umilia, rinnegando la propria identità per prevenire rischi. È difficile dire quale delle due motivazioni abbia mosso il cerimoniale a uno dei comportamenti più insensati che si potessero assumere, perché l'eccesso di zelo che si finge ispirato da una richiesta del cerimoniale iraniano può far riferimento alla provocazione di nudi contemporanei su manifesti pubblicitari o cinematografici, ma la storia è immune dal senso del pudore anche più radicale ed estremo. E qui, infatti, ci sono l'equivoco e il difetto culturale. Sappiamo le varietà dell'Islam, ma non si può immaginare di misurarsi con gli stessi strumenti con l'Islam radicale che ha il suo profeta in Maometto e la religione islamica innestata su una civiltà antica come la nostra. Non è possibile confondere l'autorità religiosa e politica iraniana con il califfo al-Baghdadi. Non è possibile confrontarsi con l'Iran come con Al-Qaeda o l'ISIS. Per secoli la religione islamica ha rispettato Palmira, che solo in tempi recenti è stata intollerabilmente violata. La Siria musulmana non rinnegava la storia romana. Parimenti, l'Islam in Iran si innesta sulla millenaria civiltà persiana, non diversamente dal cristianesimo sulle radici greche e romane. I cristiani hanno adattato, ma non distrutto, il Pantheon. E allora, soltanto una profonda ignoranza può pensare di coprire in Italia testimonianze della storia antica che non sono oscurate in Iran. A Persepoli, in Iran, i corpi nudi non sono censurati e non è dunque pensabile censurare i corpi nudi di romani a Roma. Vedere quelle scatole non sarà sembrato al presidente iraniano Rouhani un gesto di cortesia, né tantomeno, per fortuna, di sottomissione, ma soltanto la testimonianza di una sciatteria di chi ha continui cantieri per restauri in corso. Questo deve aver pensato, da uomo di cultura, dei parallelepipedi che nascondevano statue di cui non poteva immaginare l'aspetto. D'altra parte, la nudità da coprire per il senso del pudore ispirato dalla religione è quella femminile e non quella maschile. Nelle antichità romane il corpo dell'uomo può essere nudo, quello della donna è coperto. Se occorreva apparire ridicoli, siamo riusciti ad esserlo. Questo era l'articolo di Vittorio Sgarbi, Quel nudo coperto della Venere che ci fa apparire solo ridicoli, dal Giornale del 27 gennaio. Un articolo pubblicato sul sito di Panorama ricorda che, stando al rapporto di Nessuno tocchi Caino presentato a Roma lo scorso 22 gennaio, da quando Rouhani è salito al potere nel giugno del 2013, l'Iran ha conosciuto un record di ben 2.277 impiccagioni. Nel solo 2015, come già segnalato, le esecuzioni sarebbero state 980, il 22,5% in più rispetto all'anno precedente, sempre stando ai dati presentati nel rapporto. Solo 370 di queste esecuzioni sarebbero state annunciate ufficialmente. Ecco nel dettaglio le tipologie di reato punite con la pena capitale. Il reato più sanzionato dalla forca è stato nel 2015 quello del traffico di droga, seguito dall'omicidio, dallo stupro, dai reati di natura politica e dalla generica dicitura guerra contro Dio, che comprende varie fattispecie. Le esecuzioni, ha ricordato Elisabetta Zamparutti di Nessuno tocchi Caino, avvengono per lo più con l'impiccagione alle gru o con l'impiccagione lenta e molte sono pubbliche. E vengono, dice l'ONG, messi a morte anche i minorenni e persone che abbiano compiuto da minorenni il reato per il quale vengono puniti. E questo malgrado Teheran abbia firmato e ratificato la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. Ma è tornata in vigore anche la lapidazione, reintrodotta per l'adulterio dal Consiglio dei Guardiani nell'aprile 2013. In Iran, denuncia il rapporto, c'è la tortura. Viene frustato chi viola le regole sul pudore. Vengono amputati gli arti come punizione in ossequio alla Sharia e si applica anche il principio letterale dell'occhio per occhio, come nel caso di un uomo che aveva accecato un altro uomo con l'acido, al quale è stato cavato un occhio ed è in attesa di perdere il secondo. Il rapporto denuncia inoltre la persecuzione delle minoranze religiose o etniche, di quelle sessuali, la discriminazione legale delle donne. Oltre all'antisemitismo, agli appelli a distruggere Israele e alla negazione della Shoah. Sono inoltre decine i prigionieri di coscienza di cui Amnesty continua a chiedere la scarcerazione, tra cui avvocati, giornalisti, appartenenti a minoranze etniche e religiose. Il governo di Teheran liberi i 19 giornalisti detenuti nelle sue carceri e approvi una moratoria sulle esecuzioni capitali di cui detiene il record mondiale. Questo l'appello lanciato dall'esecutivo dell'ISF, Information Safety and Freedom, associazione internazionale per la libertà di stampa, in occasione della visita del presidente iraniano Hassan Rouhani a Roma. il ritmo delle esecuzioni capitali in Iran ha subito un'accelerazione esponenziale, proprio in coincidenza con l'arrivo di Hassan Rouhani al vertice del governo iraniano, spiega il presidente di ISF Stefano Marcelli. Si tratta di una palese contraddizione sia con le promesse di moderatismo fatte dal religioso iraniano al momento della sua elezione, sia delle speranze sugli effetti che l'accordo sul nucleare avrebbe dovuto avere sulla situazione dei diritti umani nel suo paese. Questi erano alcuni estratti dall'articolo Iran, Rouhani in Europa, ricordategli i diritti umani e la pena di morte, pubblicato il 25 gennaio sul sito di Panorama.